Nella Santa Messa ogni parte è ricca di significato. Noi chiamiamo del resto anche nel nome Santa Messa in maniera sbrigativa, ma il nome vero sarebbe il sacrificio eucaristico, la celebrazione del mistero pasquale. Tutto ci parla di fede e tutto ci introduce alla salvezza. Dalla parola di Dio, ma anche le orazioni, anche le antifone, o canto all'ingresso, il canto al Vangelo, l'Alleluia. Nel rito ambrosiano abbiamo anche il canto dopo il Vangelo, nel rito romano non c'è. Poi allo spezzare del pane e alla comunione. Queste cinque antifone costituiscono parte integrante della Messa. E questa settimana io vorrei commentarvele perché sono abbastanza toste. Cominciamo, se avete il libretto, Messalino, a leggere la prima, l'abbiamo già letta, ma anima mia, basta ormai col peccato. Pensa che puoi cadere a un tratto nell'eterno tormento, dove non c'è penitenza, e il pianto non vale più a nulla. Convertiti, ora che il tempo della salvezza ti è dato, e grida al Signore Gesù, pietà di me, tu che salvi. Non siamo più abituati a sentire dire queste parole, neanche predicate. Ma siccome tutto ciò fa parte del mistero eucaristico della Santa Messa, credo sia mio dovere di sacerdote parlarvene. Tanto più che c'è una bella frase, in latino facile, dice «Lex orandi, lex credendi», cioè ciò che è materia di preghiera, legge «lex orandi», è anche materia di fede, l'ex credendi. E per questo io ho il dovere di spiegarvelo. Anima mia, basta ormai col peccato. È un po' forte, forse pensiamo che sia per gli altri. Può darsi che sia per gli altri, può darsi che sia anche per noi o per i nostri cari che abbiamo a casa. Forse, mi auguro di no, ma forse c'è qualcuno che ascolta queste parole e che vive da tempo nel peccato. L'altro giorno ho partecipato a un ritiro per sacerdoti e mi è stato chiesto di confessare, e di fronte a un sacerdote che umilmente confessava la sua vita, io gli ho detto: guarda, io sono un esorcista e certamente oggi il diavolo piange di fronte alla tua confessione, e il cielo sorride. Non dobbiamo aver paura di usare queste parole, perché a parte che sono vere, io lo sperimento. Magari c'è gente che vive da tempo nel peccato, proviamo a fare un esame di coscienza. Quanti tradimenti coniugali ci sono che durano da anni e non si risolvono? Quanti distacchi dalla fede e dalla pratica religiosa ci sono e durano da una vita? E non c'è niente da fare. C'è una persona all'ospedale molto grave e una della famiglia dice: dai, ci diamo appuntamento telefonico per dire il rosario insieme. Quelle cose lì falle te. E anche di fronte a tuo fratello, che è grave, ti metti a dire il rosario. C'è gente che è abituata a bestemmiare da anni. E cosa mi dite se ho incontrato anche questo caso? Vedo persone che vivono male il loro matrimonio perché sono schiavi fin dall'adolescenza della pornografia e dell'autoerotismo, tanto da non essere capaci di fare l'amore col proprio coniuge? O ci sono rancori insanabili da non credere, dove figli sono contro genitori? Ho sentito con le mie orecchie parole di una volgarità incredibile. Oppure genitori che maledicono i propri figli, guai, guai, guai. La maledizione di un padre e di una madre chiama Satana su quella persona, guai. E poi l'esorcista deve rimediare quando ci riesce. O rancori tra fratelli che non si parlano da 20 anni. Oppure c'è gente che vive avendo rubato e non avendo restituito. Non basta pentirsi, bisogna restituire. O gente che vive una vita intera nella falsità e nella menzogna. Allora ecco che la Chiesa ti dice: basta ormai adesso col peccato, no? Pensa che puoi cadere a un tratto nell'eterno tormento. Questo tratto, scusatemi se vi rubo ancora qualche minuto, ma è da tanti anni che queste cose non si predicano più, eppure la Chiesa le porta avanti da tanti anni. A un tratto si può morire all'improvviso, noi pensiamo sempre che tocca agli altri, perché nessuno di noi è mai morto in un incidente aereo dei nostri familiari, o qualcuno sì. Io ho avuto nelle mie parrocchie precedenti gente coinvolta nell'incidente di Linate. E la gente che muore sul lavoro c'è anche nelle nostre terre, sapete. O infarto fulminante, il sacerdote deve andare a dir messa, non arriva, vanno a cercarlo e là nel suo studio, per terra, fulminato da un infarto. O gente che va a dormire e al mattino vanno a svegliarli e sono morti, dici: Don, ma cosa stai facendo? Il racconto dell'orrore. Io sto dicendo la vita. Magari siete voi che avete rimosso questi pensieri. Pensa che puoi cadere a un tratto nell'eterno tormento, dove non c'è più penitenza e non serve disperarsi. Vi starei qui fino a domani a raccontare, ma in qualche esorcismo mi si presenta qualche anima dannata che piange in maniera sconsolata e dice: è colpa mia, è colpa mia. E cosa puoi fare? Più niente. E giù a piangere, ma un pianto che io non ho mai sentito su questa terra. Convertiti, perché la Quaresima è il tempo della salvezza, e grida al Signore Gesù: pietà di me, tu che salvi. Se per caso, amici, fossimo qualcuno di noi o qualcuno dei nostri cari in queste situazioni, la confessione, subito. Potete svegliarmi anche di notte, non al telefono, perché la confessione al telefono non vale. Suonate e vi confesso anche di notte, se avete questo terrore. Don, noi grazie a Dio non siamo così, ma per i miei cari, buttati a pregare, cara mamma, caro papà, buttati a pregare. La preghiera di intercessione. C'è gente, io li conosco, che offrono preghiere, fatiche, dolori fisici per salvare anime che starebbero per morire andando all'inferno.